Oui, lui, non. Volta la pasta, réponds-toi. Pronto, pronto, qualcuno mi sente? Sì, che ti ascolto, tu mi senti? E dove ti trovi? Ah, ok, mi ascolti bene? Ah, ok, ok. Dai, più o meno siamo vicini. Ci vorrebbe un'antenna come Dio comanda. Io sono zona Monte Rosello. Diciamo che mi dà cappuccini di fronte. Beh, certo. No, vabbè, io ho un'antenna di 7 metri, più un palo da 5 metri circa. Perciò abbastanza alta l'antenna, alta. Non è manco bassa, va bene, dai, per quella zona tua, ho voglia. C'è qualcuno su 10, avanti. Forse magari non ti sentono. Ah, ho capito. Va bene, ciao, alla prossima. Va bene.